Italia in controluce. Buongiorno da Daniele Biacchessi, buon pomeriggio. Oggi è il 12 gennaio, Italia in controluce, la seconda edizione, il quotidiano approfondimento di Radio 24 sulla cronaca italiana, sui casi di Nera e giudiziaria vecchi e nuovi, le curiosità, il costume, lo spettacolo e la cultura. Prosegue anche oggi il mini viaggio d'Italia in controluce tra gli amministratori virtuosi, amati dai loro cittadini, secondo la classifica pubblicata lunedì dal Sole 24 Ore. Jacopo Matano ha messo a confronto oggi il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, del PD, e il governatore della Calabria, Giuseppe Scopelliti, del PDL. Io sono doppiamente soddisfatto, ovviamente, perché lavorare a livelli di eccellenza in una realtà meridionale e in una realtà campana a due passi da emergenze drammatiche è davvero qualcosa che deve inorgoglirci. Qual è il piano per lo sviluppo di Salerno nel 2011? Grandi infrastrutture della mobilità, decollo del piano casa, grandi opere di architettura contemporanea, dalla stazione marittima di Zavid alla piazza più grande sul mare d'Europa disegnata da Riccardo Bofill, al porto turistico disegnato da Calatrava. Credo che stiamo facendo davvero miracoli. Ovviamente ci muoviamo tutti quanti in un contesto di grandissime difficoltà. Ad esempio? Non c'è ancora oggi nessun meccanismo di premialità della correttezza, dell'efficienza. Fare il 72% di raccolta differenziata come fa il mio comune o non fare neanche il 10% di differenziata è esattamente la stessa cosa, con la differenza che io ci rimetto 19 milioni di euro l'anno di bilanci comunali, altri no. Proprio sulla questione dei rifiuti ci sono però delle polemiche per la costruzione del termovalorizzatore, c'è uno scontro tra il suo comune e la provincia e lei è stato indagato per abuso d'ufficio. Ci sono dei problemi più grandi che gravitano su Salerno? No, per quello che ci riguarda la situazione è di assoluta tranquillità e di eccellenza. Le indagini in corso sono delle autentiche imbecillità. L'indagine riguarda l'aver nominato il capo del gruppo di lavoro per il termovalorizzatore project manager anziché coordinatore. E per il resto il termovalorizzatore era già stato messo in gara da me. Poi, per ragioni di politica politicante, il governo nazionale ha sottratto al comune, come era ragionevole che fosse, la competenza per realizzare l'impianto e ha trasferito i poteri alle province che nel frattempo avevano cambiato colore politico. Tutto qui. Tra le infrastrutture di trasporto invece c'è l'aeroporto di Ponte Cagnano, per il quale Alitalia ha recentemente inaugurato i voli da Milano e da Roma con alti e bassi. Quali sono le prospettive di questo scalo? La posizione che ho io sull'aeroporto di Salerno-Ponte Cagnano è semplicissima: mettere nelle mani dei privati la gestione dell'aeroporto. Grandi compagnie che hanno competenza e qualità professionali per far decollare l'aeroporto. In questo momento l'aeroporto costa 8 milioni l'anno. Non è assolutamente detto che per fare sviluppo e creare lavoro si debbano intaccare i conti pubblici, e invece non si muove una foglia e abbiamo assistito alla rapina di quasi 35 miliardi di fondi FAS sulla pelle del Mezzogiorno. Bisogna stare davvero attenti. Da queste parti sottrarre risorse imponenti destinate allo sviluppo significa non solo avere più disoccupazione, non solo avere una società difficile da governare, ma significa avere un'esplosione di usura e di camorra che rende poi impossibile la vita nei nostri territori. Questo risultato dimostra che il cittadino calabrese è decisamente sulla strada del grande cambiamento, delle riforme e quindi di una fase di grande innovazione. Da dove si riparte nel 2011 per attuare questo cambiamento? Vorrei evidenziare il tema della sanità rispetto alla realizzazione dei tre nuovi ospedali che saranno nuovi ospedali Spock in Calabria. Nei prossimi giorni presenterò una legge che è molto innovativa anche sui temi della lotta al crimine organizzato. Poi c'è il tema dell'assetto idrogeologico, quindi i temi della salvaguardia e la tutela del nostro territorio. Immaginare una prospettiva seria, concreta e reale come quella legata ovviamente al turismo, soprattutto investendo in una prima fase in questi anni sui nostri aeroporti in prospettiva attraverso il consolidamento delle grandi infrastrutture. Proprio sulle infrastrutture c'è il problema del porto di Gioia Tauro che è rimasto chiuso perché non arrivavano navi. Come risolverete questo nodo? Bisogna incominciare insieme al governo nazionale ad agire per rafforzare la presenza di quella realtà. Quel porto non può continuare a resistere soltanto come porto di transshipment, deve diventare una realtà che si consolida anche nei territori adiacenti. E la Salerno-Reggio Calabria, ancora alla fine di dicembre ci sono stati una decina d'arresti per gli appalti. I cantieri in teoria dovrebbero chiudere entro 2 anni. Io sono molto fiducioso rispetto alle parole più volte ribadite da parte del ministro Matteoli della chiusura dei lavori nel 2013, però devo dire la verità, bisogna superare l'aspetto dei condizionamenti del crimine organizzato che può apparire a mio giudizio un alibi. Bisogna che anche le grandi imprese collaborino rispetto ai temi delle infiltrazioni mafiose. Ecco, c'è però un tema su cui è difficile che l'Ndrangheta rappresenti un alibi, ed è quello del rapporto tra le cosche e la politica. Sempre a fine dicembre sono stati arrestati alcuni esponenti del PDL che si erano candidati alle scorse elezioni regionali per presunti rapporti con l'Ndrangheta. Tra gli arrestati del suo partito c'è anche un consigliere regionale. Tutti quelli che sono, diciamo, che noi abbiamo candidato, nessuno di questi aveva problemi giudiziari in corso. Devo anche ricordare che sono stato un candidato presidente che a 2 ore dalla presentazione delle liste ha fatto una dichiarazione ufficiale dicendo ai calabresi di non votare 2 candidati che dei partiti alleati avevano all'ultima mia insaputa voluto candidare. Io per una fase sono dell'idea che bisognerebbe lanciare anche qui sul livello regionale l'ipotesi delle liste bloccate. I partiti si devono assumere responsabilità delle scelte e bisogna evitare che questo accada. Ritengo che sia veramente assurdo pensare, quando qualcuno dice che bisogna commissariare la democrazia in Calabria. In Calabria la democrazia va avanti perché ci sono degli uomini coraggiosi, perché c'è una classe dirigente che sa offrire il proprio contributo per la crescita di questa terra. E a proposito di crescita della Calabria, siamo nella settimana cruciale per il federalismo. Una volta approvato, se sarà approvato, sarà l'occasione per l'autodeterminazione della regione o resterete soli? Credo ancora oggi che sia una straordinaria e bellissima sfida. Ho sempre detto però che bisogna mettere le nostre regioni in una condizione ed un livello diverso da quello attuale. Italia in controluce. Nella seconda traccia vi raccontiamo invece il caso del referendum di Belluno, il reportage di Alice Casonna. Durante le vacanze di Natale, Moena, in provincia di Trento, è il paese di montagna così come siamo abituati a immaginarlo. Neve sui tetti, luci colorate e tanta gente che affolla i bar per proteggersi dal freddo. Al confronto Falcade, al di là del Passo San Pellegrino, in provincia di Belluno, sembra quasi un paese fantasma, con i cartelli vendesi sulle facciate delle case e di alcuni vecchi hotel lungo la strada. Solo 30 chilometri separano Moena da Falcade, ma la verità è che i due paesi delle Dolomiti appartengono a mondi diversi, il Trentino Alto Adige e il Veneto. Gillo Trevisan, presidente Federalberghi di Belluno, è inferocito. L'Alto Adige ha uno strapotere finanziario e mediatico. Se noi facciamo un esperimento, chiamate a caso qualcuno in Italia e chiedete: dove sono le Dolomiti? In Svizzera, in Austria, in Umbria, in Trentino, nel Veneto? Vedrete che gran parte delle risposte diranno Trentino Alto Adige. Questo è il frutto di una buona comunicazione. Per fare comunicazione bisogna avere capacità, ma bisogna avere anche risorse. Le risorse che ci dedicano bastano per fare qualche fieretta, ma noi siamo assolutamente inesistenti nelle pagine dei giornali, nelle televisioni. Non comunicare il prodotto significa scomparire dal mercato. Siamo sulla buona strada. Vivere in una regione a statuto ordinario, incastrata tra 2 regioni a statuto speciale, non è facile. Tanto che negli ultimi anni già 6 comuni del bellunese hanno chiesto di passare al Trentino o al Friuli. Ieri il Consiglio Provinciale di Belluno ha deliberato la richiesta di referendum per il trasferimento dell'intera provincia nel Trentino Alto Adige. Un atto indispensabile secondo il comitato referendario di cui fa parte Diego Cason. Noi non abbiamo molto tempo per ottenere l'autonomia. Se aspettiamo altri 20 anni la provincia di Belluno semplicemente scompare, perché perdiamo 1000 residenti all'anno. Abbiamo paesi come ad esempio il comune di Gosaldo nel Basso Agordino, che nel 1961 aveva 2800 residenti e adesso ne ha 600. Fra pochissimo scenderemo sotto il limite di 180.000 residenti, che è il limite minimo per mantenere una provincia. Ci sono 2 ragioni per chiedere il trasferimento di Belluno alla regione Trentino Alto Adige. Il primo è che non c'è la possibilità di ottenere un'autonomia reale dal punto di vista legislativo all'interno della regione Veneto, perché questo non è ammissibile dalle altre province della regione. Secondo, la regione Trentino Alto Adige semplicemente non esiste dal punto di vista amministrativo, è un mero contenitore vuoto di 2 province autonome. Pertanto una terza provincia che si dovesse aggregare a questa regione inesistente dovrebbe inevitabilmente assumere il rango di provincia autonoma, con un proprio potere legislativo e una propria autonomia finanziaria. Per noi è sufficiente avere le stesse risorse che lo Stato ci trasferisce per tramite della Regione Veneto adesso e poterle gestire secondo criteri che scegliamo direttamente qui. Pertanto non si tratta di avere una quantità di denaro pubblico in più, si tratta di usarlo solo in modo diverso, in modo più adeguato, per poter declinare politiche adeguate ai territori montani. Anche se ieri tutti i gruppi politici hanno appoggiato il referendum, non mancano i distinguo, specie da parte della Lega, divisa tra l'istinto di sostenere questa richiesta popolare di autonomia e il veto dei vertici nazionali, che proprio in questi giorni si spendono per il federalismo fiscale. Sono leghisti gli unici due consiglieri che hanno votato contro il referendum. Diego Vello è il segretario provinciale del Carroccio. Giustifico il movimento di questo periodo come un movimento di protesta, diciamo, all'interno di una crisi economica. Io reputo che dobbiamo tenere duro, portare a casa il federalismo e poi potremo anche aprirci ad ulteriori autonomie e quant'altro. L'abbiamo già detto e ribadito più volte in questi anni, ben venga autonomia per la Regione Veneto con una specificità per Belluno. Quindi reputo che una buona autonomia all'interno del Veneto dia più risposte ai territori montani di quanto potrebbe darne una regione dolomitica. Non è per nulla d'accordo Moreno Broccon del Comitato Referendario. Il federalismo non è sufficiente per risolvere i nostri problemi, soprattutto dal punto di vista legislativo. Non a caso si chiama federalismo fiscale, perché tratta solo la componente fiscale. Siamo il 4,5% della popolazione veneta. Ci troviamo a gestire con una popolazione così scarsa quasi il 20% del territorio, che è completamente montano. Per gestire un territorio di questo tipo abbiamo bisogno di leggi fatte in maniera specifica per la montagna. Quindi anche se la componente fiscale fosse in qualche modo vantaggiosa, cosa che peraltro è tutta da dimostrare, non sarebbe sufficiente, perché noi abbiamo bisogno di avere le leggi pensate per la gente che vive in montagna e non per la gente che vive nell'area metropolitana veneta. La seconda edizione di Italia in Controluce, vi ricordo, il nostro sito è radio24.it, dove trovate l'archivio, dove trovate anche il blog di questa trasmissione. Poi Radio 24 Italia in Controluce, il gruppo su Facebook, il gruppo invece su Twitter in Controluce, la nostra mail quotidiana controluce@radio24.it. Torniamo domani 6:30 con uno speciale dedicato agli amministratori virtuosi. Sentiremo le voci di De Luca, Scopelliti, ma anche di Renzi e di Zaia.